Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Si parla tanto di com'era buono il cibo di una volta, Federico. E invece, diciamocelo, è una sciocchezza. Ecco, qui a Food Lab, che è appunto il programma che vi racconta quali siano le frontiere dell'agricoltura e anche le innovazioni del cibo, vi spieghiamo come le nuove tecnologie ci consentano di avere alimenti più sicuri. E per parlare di analisi del DNA del cibo, è qui con noi Valentina Gualdi, benvenuta. Ciao, benvenuti. Benvenuta Valentina. Lei è responsabile del laboratorio piattaforma genomica del Parco Tecnologico di Lodi. Lasciamo a lei raccontare che cosa avete messo a punto, cioè come è possibile utilizzare proprio questa metodica molecolare di analisi del DNA, quindi genetica, per valutare la qualità e la bontà del cibo e degli alimenti. Sì, presso i nostri laboratori ne utilizziamo metodiche di biologia molecolare che quindi studiano il DNA degli alimenti e quindi il DNA della matrice da cui sono stati derivati. Attraverso questo studio noi possiamo garantire la salubrità, ma non solo dei prodotti, quindi anche tracciare l'origine di un prodotto. Quindi le metodiche del DNA consentono di avere informazioni molto più specifiche e aggiuntive rispetto a quelle che sono le metodiche classiche che vengono comunemente impiegate nei laboratori di analisi degli alimenti. Ok, quindi diciamo che con questo metodo possiamo dire, ad esempio, che le olive di Gaeta arrivano veramente da Gaeta. Esatto, okay. Proprio la tracciabilità di origine o la tracciabilità di varietà è uno degli esempi classici di informazioni che si possono avere indagando il DNA di un alimento. Ma quando poi parliamo di qualità e siamo sulle olive certificate da Gaeta, voi misurate anche una qualità del prodotto? Certo, perché la qualità del prodotto è associata anche alla salubrità e non solo alla sua origine, quindi noi con il DNA possiamo anche verificare che l'alimento sia salubre e quindi rispondere ai quesiti di legge. Ci dice tutto praticamente. Questo però probabilmente a molti di noi sfugge, perché saremmo tentati di pensare che il DNA, anche se un cibo è andato un po' avariato, però resta quello. Com'è che invece c'entra la valutazione DNA con la qualità, stato di qualità del cibo in un certo punto, momento? C'è un duplice aspetto. Prima di tutto è vero, il DNA rimane stabile, questo è il valore aggiunto delle tecniche del DNA e quindi ci consente, ad esempio, nel tracciare la varietà di ritrovare in maniera univoca il DNA di quella varietà, di quell'alimento. Dall'altra parte quell'alimento conterrà anche il DNA della flora microbica che lo caratterizza e in questo senso possiamo valutarne la salubrità, perché se ritroviamo la presenza di un DNA di un patogeno possiamo dire che quell'alimento è non conforme. Ecco qua, è contaminato da altro DNA. Esatto. Per esempio. Lei prima parlava di metodi tradizionali, se ci dice appunto brevemente quali siano, perché così almeno capiamo qual è la differenza e la vera novità. Sì, quando si parla di metodi tradizionali si fa riferimento ai metodi di microbiologia classica o ai metodi chimici, che quindi sono metodiche che abbastanza laboriose e che sono, diciamo, tradizionalmente impiegate nei laboratori classici. Le nostre invece vanno a lavorare sul DNA e quindi questa è la caratteristica. Ecco, voi in realtà poi avete messo a punto un'analisi piuttosto anche rapida, perché se noi immaginiamo di dover mandare in un laboratorio il DNA di una prugna andata male, ad esempio, ci immaginiamo dei tempi abbastanza lunghi. Invece diciamo che qua l'innovazione è che voi avete sveltito un po' la pratica anche in termini di tempo e di costi. Assolutamente sì. In realtà i metodi basati sul DNA si caratterizzano proprio per essere più sensibili e più rapidi rispetto a quelli classici. In più noi abbiamo sviluppato dei sistemi che sono proprio portatili, che possono essere impiegati dalle autorità direttamente in campo, svelocizzando molto i tempi di analisi. Quindi voi date una certificazione lì al parco per tutti quelli che producono alimenti, possono avere un vostro marchio, diciamo, di qualità. Ha sviluppato un marchio che si chiama marchio DNA controllato, che diamo in licenza d'uso gratuito a tutti i produttori che vogliono, a tutela della garanzia della qualità del loro prodotto, approfondire le analisi con delle tecniche appunto sul DNA. Vorrei puntualizzare la cosa che diceva, appunto, che può essere utilizzato anche dalle ASL e dalle forze dell'ordine, cioè questa tecnologia potrebbe può andare all'interno di un kit, chiamiamolo così, che può essere utilizzato in loco addirittura? Sì, è vero, questo può essere utilizzato in loco, può essere utilizzato sia dalle autorità, ad esempio classico esempio sono le dogane che ricevono la merce, che quindi proprio prima di ricevere la merce e sdoganarla effettuano i controlli delle analisi, oppure possono essere le stesse aziende produttrici che vogliono controllare i propri fornitori. Certo, lì non interviene il marchio di qualità, ma interviene la tecnica, che è molto efficace. Esatto, questo è un aspetto importante, perché noi come ente terzo, attraverso il nostro logo e attraverso il nostro marchio di DNA controllato, possiamo supportare le aziende che vogliono dimostrare la qualità del loro prodotto con questi piani di analisi su lotti rappresentativi all'anno. Dall'altra parte, le stesse metodiche applicate in campo possono poi essere utilizzate dalle autorità competenti a loro volta per verificare che quanto dichiarato sia realmente conforme. Va bene, grazie Gualdi, davvero buona ricerca. Grazie a voi. Buon lavoro. Certo che il DNA sta entrando dappertutto. E infatti lo incontreremo ancora qui a Food Lab parlando di cibo. Per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata.